140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Officine meccaniche, studio di registrazione, Milano. Torna a scrivere e cantare uno dei più grandi musicisti italiani. In autunno arriva un album, ora c'è il singolo The Big Man. Mauro Pagani. Ero a casa che scrivevo, ascoltavo, e da un lato c'era questa presenza che sentivo incombere, no? Dall'altra parte dell'oceano, ma neanche così tanto, no? E dall'altro lato mi è venuto Fly with the Big Man, ho detto, e piano piano il pezzo si è messo a posto, cioè è come se si fosse scritto da solo il pezzo. Io ho solo assistito alle passeggiate con i fini cartoni animati dove metti una roba click, poi un altro si attacca, poi si e poi la macchina gira e è funzionato così. E si è scritto da solo in inglese? Si è scritto da solo in inglese, sì, perché insomma il soggetto era diciamo di una personalità prepotente e esplosiva e quindi... No, è che in realtà ovviamente non si riesce mica a fare una roba in italiano con quel tipo di suono lì. A me piace, avevo voglia di fare un pezzo da ballo, diciamo, perché mi divertiva l'idea. E quindi insomma, la scelta sull'inglese è venuta automatica. Devo anche dire che, non lo so, una cosa che non vorrei fosse malinterpretata, però mi piacerebbe che qualcuno di quelli che vota a novembre sentisse il brano. Se qualcuno avesse un dubbio di quello di cui si sta parlando, magari se ce l'avesse anche ascoltando semplicemente la canzone, non ce l'ha più nel momento in cui guarda il video, perché il video ha un protagonista che, guarda caso, assomiglia molto a Donald Trump. Sì, è mio cugino. Cugino Donaldo. È mio cugino, non sono riuscito a tenerlo fermo. No, insomma, sì, gli assomiglia un po', ma insomma, in realtà Donald Trump è un pretesto per raccontare storie di oggi che succedono un po' dappertutto, che succedono in Europa, succedono in Italia, succedono in America, eccetera. E lui ovviamente, colorato, colorito e ingombrante com'è, è una parabola abbastanza chiara di quello che si vede in giro. Should go back to the glorious times when this country was the biggest, this country was the strongest country in the world. Te apre The Big Man nella tua storia adesso, perché capisco l'urgenza di fare una canzone che, come hai detto, si è scritta da sola, ma adesso, cioè, sembra una porta aperta che ti porta dove? Erano un po' di anni che facevo fatica a trovare qualcosa di cui avessi veramente voglia di parlare, di scrivere. Ci sono tutta una serie di contenuti, per quanto nobili, che dopo che li hai girati e rigirati per 50 anni non sai più, avevo la sola idea, cioè, con le canzoni d'amore ho le mie difficoltà, diciamo. Allora se devo pensare a un mio futuro condannato alle canzoni d'amore, apro un banco di gelati, non ne posso più, non ne posso più. Allora devo dire questa porta, più che questa porta che si è aperta, questa porta che si è riaperta su ricordandomi che c'è un modo di guardare la realtà, di provare a raccontarla e di viverla da musicista che tenga conto di un po' di cose in più che non siano mi amo, non mi ami, acci picchia, come sono solo, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi in realtà è stato, questa porta che si è aperta è una specie di energizzante via bocca, non lo so, senza contare il fatto che ho proprio l'impressione che ci sia un urgente bisogno di un cambio dei contenuti, ma non fosse altro per creare merce da vendere. Vogliamo parlare di mercato? Dobbiamo trovare, fuori discussione, dobbiamo trovare merce nuova, no? Modi nuovi di viverla. E quindi concludo chiedendoti se a questo punto fare musica è ancora più necessario di prima. Ma sai, io la mia risposta è facile, perché è l'unico mestiere che di fatto so fare nella realtà, a parte tutti questi pronunciamenti eccetera, io do minore, la minore, sempre lì vado a finire, hai capito? Quindi io spero che sia così, perché se no non saprei da come inventarmi. Però sì, di sicuro verrebbe semplicemente fare in modo che la musica torni ad essere il fiume sul quale galleggiano i sogni delle generazioni. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Mauro Pagani. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.